9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, questo inizio di settimana, questo lunedì 27 settembre, lo dedichiamo a un tema, quello della sanità, e in particolare di come cambia la sanità in Italia, soprattutto guardando a un paragone con il resto d'Europa. E all'interno di questa graduatoria comparata di efficienza, di spesa, di allocazione delle risorse, in particolare considereremo nel modello italiano rispetto a quello di maggiori paesi europei quanto, come e se il privato, la componente di offerta sanitaria privata, i meccanismi di erogazione dei servizi in concorrenza da parte di privati all'interno di standard del sistema pubblico, sia da considerare amica o nemica della qualità e dell'efficienza del sistema sanitario complessivo. Lo facciamo partendo da uno studio che viene presentato proprio stamattina, ed è uno studio curato dall'Istituto Bruno Leoni, si intitola "Eppur si muove, come cambia la sanità in Europa tra pubblico e privato". C'è una prefazione di Giampaolo Galli, che è economista e direttore generale di Confindustria, e questo studio è stato curato da Gabriele Pellissero e Alberto Mingardi. Alberto Mingardi è il direttore generale del Bruno Leoni, lo conoscete perché spesso lo invito nelle trasmissioni. Dichiaro apertamente che anch'io sono signor fellow del Bruno Leoni, e il Bruno Leoni è un think tank che si occupa specificamente del ruolo del mercato e della libera concorrenza nel nostro paese, quindi ha un punto di vista, non è che lo nascondo. Invece il professor Pellissero insegna igiene presso l'Università di Pavia, dove è direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, ed è vicepresidente dell'IRCS Policlinico San Donato. Allora, direi di cominciare esattamente con il professor Pellissero a capire quali sono le caratteristiche di fondo di questo esame comparato. È un volume, costa 22 euro, in cui si parte dall'analisi dei più recenti provvedimenti che dall'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale hanno caratterizzato l'evoluzione del sistema italiano, e poi si approfondisce con un criterio analogo, quindi parte ordinamentale che descrive, anche per chi non conosce i fondamenti dei diversi sistemi nazionali, li descrive, ne descrive il funzionamento, ne descrive l'evoluzione negli ultimi anni e le performance, e c'è un capitolo dedicato alla sanità in Francia, ce n'è uno sulla sanità in Germania, uno sul sistema sanitario olandese e uno sul sistema svizzero. E direi di cominciare dal professor Pellissero. Abbiamo oltre a lui ospite in questa prima parte della trasmissione il professor Cesare Greco, che insegna cardiologia, associato di cardiologia alla Sapienza di Roma. Allora, cominciamo intanto facendo salutare i nostri ascoltatori il professor Greco. Buongiorno professor Greco. Buongiorno dottor. Ecco, il professor Pellissero, direi di cominciare invece. Buongiorno a lei, professor Pellissero. Dottor Giannino, buongiorno. Eccoci a tutti qua. I radioascoltatori. Allora, noi abbiamo in questa prima parte della trasmissione un compito un po' didascalico, per così dire, che bisogna tentare di svolgere con un po' di brio per evitare di perderci per strada tutti gli ascoltatori che si annoiano quando si parla troppo di numeri, però un po' di numeri fanno bene. Allora, io dichiaro subito, così vado immediatamente a fare il provocatore, che la mia preferenza è per il sistema olandese, poi arriveremo a capire perché, però la mia preferenza è quella. Ma in realtà partiamo da una osservazione comparata che consente in 2 minuti e mezzo a lei di fare la sintesi: come si colloca il sistema italiano rispetto appunto a Francia, Germania e Olanda in Europa per efficienza, competitività, per capacità di saper spendere meglio o peggio i suoi soldi, e in particolare per il ruolo che ci hanno i privati. Partiamo dalla conclusione, quindi la conclusione a cui arrivate qual è? Come stiamo messi in Italia? In Italia siamo messi in un modo molto variabile, perché la caratteristica forse più interessante e quella che colpisce di più del sistema italiano è che il sistema italiano non è un sistema. L'Italia ha questa caratteristica, che io credo sia unica in Europa, Per cui apparentemente noi abbiamo un sistema sanitario, no? Tutti lo dicono, il sistema sanitario nazionale, bello e brutto, piace, il più bello del mondo, il secondo del mondo, sa che ci sono state periodicamente tutte queste uscite. Lei sa benissimo che i più dei nostri ascoltatori si sentono dire da anni che l'Italia sarà un paese che ha enormi difetti, però la nostra sanità non come quella degli americani, poveri, buttati per le strade, senza copertura. Noi sì che abbiamo realizzato l'assoluto rispetto dei diritti universali nella sanità. Bah, questo comunque è quello che si sente dire, prego. Beh, sulla legge è scritto, ma diciamo le cose scritte sulla legge non è che sempre si avverino. Ma la cosa veramente curiosa e interessante è che l'Italia in realtà non ha un sistema sanitario. L'Italia ha 21 sistemi sanitari diversi che sono cominciati a diventare diversi da moltissimo tempo fa. Però almeno da 15 anni le differenze stanno aumentando. L'autonomia che è stata data alle regioni o che le regioni si sono prese è notevolissima, per cui in Italia noi assistiamo a un fenomeno veramente particolare. Cioè è un paese apparentemente unito, con un sistema sanitario che sembra unico, ma in realtà è fatto da 21 sistemi sanitari diversi, con una caratteristica però importante, che il cittadino italiano resta cittadino italiano, io direi già subito fortunatamente, poi se vorrà spiegherò perché dico questo, perché il cittadino italiano ha diritto di muoversi liberamente fra questi 21 sistemi. E infatti c'è un'elevatissima mobilità sanitaria e ospedaliera e alcune regioni, quelle della maggiore efficienza come la Lombardia, attirano enormi flussi di cittadini dalle altre regioni. Io in questo dico l'Italia anticipa l'Europa. L'Italia è interessante, la possiamo studiare perché vediamo oggi in Italia che cosa capiterà il giorno in cui in Europa le frontiere sanitarie cadranno. Cioè cosa capita quando cittadini acquisiscono il diritto di muoversi liberamente fra sistemi sanitari diversi, che evidentemente possono essere diversi, qui sono diversi per qualità. Quando si potrà immaginare qualche cosa di simile, cioè la piena portabilità del proprio principio assicurativo sanitario in tutta Europa? Mai? La vedo veramente molto lontana, perché l'Europa della sanità in realtà è rimasta l'Europa degli Stati. È un percorso lunghissimo questo davanti a noi. Io penso che ci potrebbe volere una generazione intera, anche se, devo dire, le tensioni sono molto forti, perché c'è un'evidente contraddizione fra il principio di un'Europa in cui le merci circolano liberamente e un'Europa in cui i servizi non riescono a circolare, almeno quello sanitario, che peraltro è un servizio fondamentale che viene sempre più vissuto in questo modo dai cittadini europei. Nelle diverse regioni italiane c'è una componente di privato molto variegata e un aspetto della maggiore efficienza delle regioni che spendono meglio in relazione non solo al totale del debito per cittadino che hanno accumulato in sanità, ma in relazione al fatto che sono addirittura in attivo, ma anche per la qualità dei servizi che sanno offrire, appunto, esempio la Lombardia, che da questo punto di vista è un'eccellenza, hanno anche una componente di privato che è più elevata nel sistema ospedaliero, per esempio, di quanto non avvenga altrove. Allora, la prima questione che le chiedo di trattare è se questa relazione tra presenza del privato in competizione in un mercato in cui il pubblico è anche certificatore degli standard, ma assume la competizione del privato come uno degli aspetti capaci di accrescere efficienza e qualità del servizio, è solo in Italia avvicinabile a una migliore offerta complessiva sia per finanza pubblica utilizzata sia per qualità dell'offerta, o in realtà se facciamo un esame comparato tra Francia e Germania, in Germania la componente privata ospedaliera si è molto accresciuta in questi ultimi anni, Olanda eccetera eccetera, possiamo arrivare a un'indicazione che tutto sommato il privato non è un privato interessato e poco interessante come sono abituati a pensare molti italiani dai loro politici, che dicono se devo rientrare nel deficit sanitario iniziamo a tagliare dai privati, ma in realtà, facendo un esame comparato in Italia e in Europa, se si indirizza bene la concorrenza del privato nei meccanismi di erogazione, nei principi di assicurazione, nell'offerta di servizi, diventa quasi sempre, come tra i 21 sistemi di sanità regionale italiana, ma anche nel confronto comparato con gli altri paesi, è il privato, più privato uguale miglior spesa e più qualità. Ma è un principio generale, è un principio che tollera eccezioni, oppure non è proprio per questo, per niente, il principio a cui arriva questo studio? Pelissero. Dunque, mi consenta di dire che tanto sul privato si scatenano subito delle tempeste ideologiche, viscerali enormi, e questo lo mettiamo già subito in conto, perché andiamo a toccare un vecchio tabù, e da questo punto di vista il privato e sanità se ne dicono sempre le belle. Ma per andare alla sostanza, prima di tutto bisogna capire che la sanità parte come un sistema pubblico e come un monopolio pubblico in tutta Europa. Allora, quando in un monopolio pubblico facciamo entrare una componente di tipo privata, che vuol dire affidiamo a un gestore di tipo privato che mette capitali e rischia una parte di questa attività, dipende, può andare bene, può andare male. Il privato di per sé stesso, a mio giudizio, non è un dogma, è uno strumento possibile che, se usato bene, e sottolineo tre volte questa frase, può dare un grandissimo vantaggio al sistema. Se non è usato bene, non dà un grandissimo vantaggio al sistema. Guardi, noi in Italia abbiamo una situazione paradossale. Ne abbiamo regioni con tanto privato in sanità, tanto deficit e grossi problemi di qualità. E abbiamo regioni invece con un privato molto significativo, come la Lombardia, in sanità, con senza deficit e con altissima qualità. Dunque, il successo derivante dalla presenza di una quota del privato in sanità dipende tutto dalla capacità di governo. D'altra parte, la stessa identica cosa la vediamo in Germania, la vediamo in Francia, lascio lei l'Olanda, che invece è una cosa un pochino diversa, anche se poi alla fine il risultato credo sia abbastanza simile. Quando lei dice capacità di indirizzo, che cosa vuol dire in concreto? Che cosa ci insegna l'esperienza comparata che bisogna fare perché il privato serva a innalzare la qualità della spesa e la qualità del servizio? E che cosa invece il privato rappresenta come potenziale minaccia di interesse improprio rispetto all'assicurazione universalistica del diritto alla salute? Guardi, il problema è proprio qui. Cioè, se si accetta il principio che il privato rappresenti un elemento di autentica competizione, aggiungo virtuosa, se no metà dei radioascoltatori gli viene un accidente questa mattina, di competizione virtuosa rispetto al pubblico, noi abbiamo un risultato straordinario, nel senso che il privato si mette a correre, il pubblico gli corre dietro, il privato costituisce un benchmark, trascina il pubblico, riduce la propria autonomia, non può più fare tutto quello che vuole, prende degli elementi gestionali, delle caratteristiche operative del privato e il sistema complessivamente migliora. Però per fare questo bisogna dire che bisogna lasciare un po' libero. Cosa vuol dire un po' libero? Bisogna dire che quando il privato entra dentro un sistema sanitario deve avere le stesse regole, le stesse caratteristiche e potersi muovere nello stesso modo del pubblico. Se vuole poi le faccio un esempio così magari qualcuno capisce. Facciamo un esempio, perché già le stanno dicendo che lei dice che ci sono 21 sistemi con 20 regioni e che in realtà è stato molto diplomatico nel non farci capire bene come sta messa l'Italia rispetto agli altri paesi. Sì, questo è un pubblico affamato di numeri, cose eccetera, quindi facciamo gli esempi. Allora guardi, la cosa più semplice è questa, il pronto soccorso. Una delle cose, dei miti di questi, della polemica sulla sanità in Italia, fra privato e pubblico, il privato non seleziona le prestazioni, non fa l'urgenza-emergenza, non fa la terapia intensiva, prende solamente quello che gli conviene. Benissimo. Allora, il privato, se gli diciamo di fare così, di non fare il pronto soccorso, di scegliersi pure le prestazioni, di prendere quello che gli conviene, evidentemente lo farà. Se invece noi gli diciamo, no caro privato, tu vuoi entrare dentro, allora tu fai dei veri e propri ospedali, apri dei pronti soccorsi, metti le terapie intensive, lavori esattamente come un ospedale pubblico, io non mi accorgo più se sei pubblico o privato, a questo punto andiamo incontro a una vera competizione. Allora dico una cosa, l'80% di tutti i pronti soccorsi presso strutture ospedaliere di tipo privato in Italia sono in Lombardia. Ma e questo fa capire lo schema su cui si è mossa questa regione. Perché l'idea è che si chiede all'offerta ospedaliera privata di fare tutto come quella pubblica. Sì, in questo modo diciamo anche questo, il pubblico fa un passo indietro. Vuole usare uno slogan, la politica ha il coraggio di fare un passo indietro. Senta, dovessimo invece indicare qual è la sintesi del vostro rapporto su, al di là della qualità dell'offerta, su, perché poi c'è anche un grande problema che riguarda il finanziamento del sistema, perché la sanità è diventata una delle voci più delicate del bilancio del welfare, a maggior ragione di fronte alle prospettive, alle curve demografiche e al bilancio intergenerazionale che è incorporato nell'invecchiamento progressivo, nell'aumento delle attese di vita della nostra società, nella diminuzione però del numero di attivi e contribuenti che poi devono reggere il sistema. Da questo punto di vista, i diversi meccanismi di finanziamento dei maggiori paesi europei indicano che chi sta messo meglio in vista del futuro, chi ha la parte contributiva obbligatoria pubblica più elevata e fino a che punto sostenibile, o chi si è aperto a forme anche lì pubblico-private di competizione e di libertà di scelta da parte del cittadino, del principio e dell'erogatore della sua assicurazione. Allora, se guardiamo i paesi, dobbiamo dire una cosa che può sembrare sconvolgente. Uno dei paesi che sta meglio è l'Italia. Effettivamente l'Italia, rispetto per esempio alla Francia e alla Germania, prendiamo due paesi che ci sono molto vicini, che fanno parte di un'area continentale con molte caratteristiche vicine, l'Italia ha un vantaggio economico enorme. Il sistema sanitario italiano costa poco. Guarda, l'ultimo dato che ho sotto l'occhio, che è il dato dell'OCSE, del 2007, dice che l'Italia ha una spesa sanitaria pubblica sul PIL del 6,7%, la Germania dell'8%, la Francia dell'8,7%. Rendiamoci conto che sono delle dimensioni gigantesche. Infatti nel nostro libro noi diciamo... Nel nostro caso poi si aggiunge almeno un 2 punti di PIL di spesa privata. Un po' dappertutto questo fatto, però per il momento questo lo lascerei sullo sfondo, poi bisogna anche capire che cosa significa questa spesa privata. Ma diciamo, stando sulla spesa pubblica, ecco, l'Italia è sicuramente, è quello che ripeto, noi diciamo, è un paese con una bassa spesa sanitaria in un paese che ha un'alta spesa pubblica complessiva. La sanità italiana paga un prezzo al costo complessivo del welfare italiano non sanitario. Detto questo, ripeto, i sistemi all'interno dei 21 sistemi italiani, quelli che hanno saputo usare il privato meglio, parlo della Lombardia in questo caso che è emblematica, sono i sistemi che hanno avuto in questo un risparmio, per cui hanno potuto spendere questo denaro per aumentare la qualità senza con questo andare in deficit. Allora, professor Greco, cambiamo un secondo prospettiva e passiamo dalla teoria alla constatazione poi che arriva al cittadino che utilizza il servizio, si rivolge per i diversi servizi, la diagnostica, la prevenzione, la terapia, al sistema pubblico in regioni in cui la qualità dell'offerta è molto diversificata, perché partiamo da questo presupposto, lo abbiamo detto ed è testimoniato dai grandissimi flussi di immigrazione sanitaria all'interno del nostro paese. Alla maggior parte degli ascoltatori, lo vedo subito, ma questo lo sappiamo da sempre, quando si parla di privato come stimolo all'efficienza e come componente più dinamica per quantità di investimento, per esempio per qualità dei servizi offerti al malato, la diffidenza scatta immediata, perché poi si pensa sempre che non ne sia un caso che molte indagini propongano ritualmente sulla stampa i complessi sanitari privati o i gruppi privati come al centro di enormi sospetti, di scandali, di improprie commistioni con la politica, eccetera eccetera. Nella realtà, per esempio nella sua esperienza, sia l'aspetto positivo che l'aspetto negativo, perché noi non stiamo qua a fare il peana del privato nel servizio sanitario italiano, se dovesse dire con mano lei come li ha toccati o come li ha dovuti combattere quando erano le cose negative, che cosa ci indicherebbe? Ma intanto buongiorno a lei e ai radioascoltatori e al professor Pellissero. Il problema è che il privato rispetto al pubblico ha sicuramente una gestione estremamente più agile, estremamente più efficiente ed estremamente più efficace per quanto riguarda l'offerta sull'offerta sanitaria. Il pubblico oggi è estremamente gravato da quelle che sono condizionamenti politici che fanno sì che il sistema sanitario venga utilizzato poi per fini di tipo clientelare, e quando bisogna tagliare la spesa si finisce per tagliare la spesa assistenziale. In realtà di privato positivo vero si può parlare solo in Lombardia. E non è un caso, perché in Lombardia... Quindi lei è drastico in questo giudizio? Sì, sono drastico. Nel senso che in Lombardia è stato attuato quello che era previsto, ad esempio, dalla legge 502 del 93, la quale prevedeva una reale contrapposizione tra pubblico e privato. La riforma Amato della sanità. Esatto, per fare questo... Però il privato doveva, come diceva prima correttamente il professor Pellissero, offrire esattamente le stesse cose che offre il pubblico, quindi segnatamente i pronto soccorso, idea di secondo livello, che sono la parte che piace meno al privato perché sono quella più imprevedibile e costosa. Però la politica a fronte di questo forniva un pagamento completo di quelle che sono le prestazioni. Tutto questo si è tradotto in un miglioramento dell'efficienza, e non è un caso se quando si citano dei centri di eccellenza in Italia si finiscono per citare dei centri a gestione privata. Il centro tumori di Milano è un centro a gestione privata, San Donato è un centro a gestione privata, San Raffaele è un centro a gestione privata. Quindi evidentemente il problema si pone perché il nostro sistema nazionale, come il sistema inglese, come il sistema canadese, hanno un difetto di fondo, e il difetto di fondo è l'identificazione tra chi garantisce l'assicurazione, chi eroga la procedura sanitaria e chi fa i controlli, che è lo stesso soggetto. Quindi con un cortocircuito di conflitto di interesse terribile. D'altra parte è anche vero che con le leggi successive, in particolare con quella nota come legge Bindi, c'è stata una vera e propria occupazione militare del sistema sanitario, che ha fatto sì che venga utilizzato come sfogo da un punto di vista clientelare. Questo si è tradotto in inefficienza, perché il sistema sanitario è stato, la spesa sanitaria nelle regioni è stata utilizzata per mantenere la macchina elettorale dei partiti. Esattamente, questo giudizio del professor Greco l'avessi dato io, avreste pensato che come al solito sono il provocatore che dice che lo Stato è corruttore, ma mi trova integralmente d'accordo. Nella seconda parte vedremo di capire se non sia il caso, per questo a me piace il modello olandese, di pensare, in Olanda hanno fatto la riforma da qualche anno a questa parte, 2006, e cui si mette il privato, lo si mette addirittura anche a metà, per così dire, tra il soggetto finanziatore pubblico, sia nel caso che siano contributi obbligatori, sia nel caso che sia fiscalità generale, e anche la parte pubblica del sistema sanitario che eroga direttamente i servizi. Si mette dei grandi soggetti collettivi significa che c'è adesione libera della spontaneità dei cittadini, ma di tipo privato, che si mettono in mezzo anche tra risorse pubbliche e offerta pubblica. Vi sembra impensabile? Eppure guardate che da quelle parti sta producendo degli effetti notevoli. Mi rendo conto che rispetto al meccanismo clientelare in cui la spesa sanitaria e la gestione di aziende ospedaliere si è risolta in molte regioni del nostro paese, come potete immaginare, questa sarebbe una specie di rivoluzione, ma non francese, no, una grande rivoluzione di mercato che cammina sulle gambe e sulla libera scelta degli assistiti contribuenti, e non mi sembra poco come principio. Immagino che voi ne diffidiate, lo vedo dai vostri messaggi. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando dei sistemi sanitari nel nostro paese e dei maggiori paesi europei comparati. In questo studio curato da Gabriele Pellissero, il professor Pellissero, abbiamo sentito da Alberto Mingari dell'Istituto Bruno Leoni, lo studio si intitola Eppur si muove, come cambia la sanità in Europa tra pubblico e privato, una prefazione di Giampaolo Galli. Abbiamo visto una prima parte, sintesi estrema, l'Italia non sta messa così male, spende un po' meno degli altri paesi europei, 6,7, 6,8, 6,9% più un 2% più o meno privato, però altri paesi spendono di più, è molto variegata al suo interno, la regionalizzazione ha proposto modelli molto diversi, sia per capacità di spesa a fronte di efficienza, sia per capacità di deficit, ohimè. E quindi, in vista della fissazione del costo standard, dei costi standard, sempre che siano costi standard e non fabbisogni standard, come vi ho già spiegato, secondo me noi andremo al fabbisogno standard, non al costo standard. Per fare il costo standard in sanità bisogna avere dati su cui fare le simulazioni micro, cioè su quanto costano gli input intermedi e che cosa si traducono in prezzi rispetto all'offerta di servizi. Io non credo che questo sarà il sistema che verrà adottato, ne abbiamo parlato tante volte e me ne dolgo, perché questo avrebbe significato davvero esaminare efficienza e propensione alla spesa per qualità offerta dei diversi sistemi sanitari regionali. Però invece credo che la politica dopo 16 anni ci dirà che possiamo fare invece una media rispetto al costo storico, cioè a quanto si spende per assistito, ribilanciandolo per tipologia demografica ed epidemiologica delle diverse regioni italiane, si traccerà una linea intermedia, secondo me significativamente distante da quella dell'efficienza della Lombardia, e si dirà che quello è la grande acquisizione del federalismo sanitario. Bah, la mia opinione, sono molto critico, io avrei preferito, la penso esattamente come Luca Ricolfi, che si è messo criticamente a dire questo è un federalismo sanitario molto rinunciatario rispetto a quello che sappiamo oramai con i dati acquisiti nel sistema sanitario regionale. Per questo vi invito a leggere questo rapporto comparato. Iniziamo a sentire anche qualche telefonata per vedere tutto questo filo privatismo, quante cattivi dubbi vi sta facendo venire a casa. Sentiamo per esempio cosa pensa Luca da Milano. Prego Luca, ci dica. Buongiorno dottor Giannino. Io non penso che sia utile ovviamente contrapporre privato e pubblico, è una impostazione ideologica. A proposito, in quanto medico, volevo proporre due questioni tecniche. Primo, trovo che ci sia tuttora una legge borbonica che impedisce a un medico, che ha lavorato come nel mio caso per anni nel sistema pubblico, all'occasione di lavorare nel privato in una posizione dirigenziale, tornare indietro. Cioè, intendo dire che se un medico lavora, si licenzia dal servizio pubblico, dovrebbe ritornare. Scusi che sono in arrivederci. Dovrebbe tornare nel sistema pubblico perdendo l'anzianità e tutti i benefici che aveva guadagnato, visto che sappiamo che il sistema pubblico si muove soprattutto tenendo conto dell'anzianità di servizio. Mi sente? Sì, la sento, la sentiamo. Abbiamo sentito anche il simpatico colloquio col Stellar con la macchina. Sì, io ci parlo sempre perché mi fa ridere queste signorine che mi salutano. E allora lei dice, in parole povere, se uno poi torna indietro è discriminato. Questa è la prima questione, quindi credo che bisognerebbe pensare che un medico che si muova dal privato al pubblico porta valore aggiunto a entrambe. La seconda questione invece è che attualmente la legge italiana non prevede che il sistema privato faccia trattamenti sanitari obbligatori. Questo mette il sistema privato in vantaggio rispetto al pubblico se lo vogliamo far competere. In particolare, ma non solo, questo lo conosce bene chi fa psichiatria, solo l'ospedale pubblico può fare il trattamento contro la volontà del malato. Questo lo conoscono gli psichiatri, ma vale per qualsiasi. In Italia è prevista il trattamento in casi ovviamente specifici. Queste sono le due questioni tecniche, volevo sentire il parere e vi ringrazio molto. Io ringrazio Luca da Milano, mi correggo perché ho dato l'impressione, e soprattutto se l'ho dato ai tecnici, agli operatori del settore, di contrapporre pubblico e privato, lungi da me. Al contrario, noi sosteniamo corredati da questo studio la tesi secondo la quale il privato non va discriminato in nome della prevalenza del pubblico, ma va invece contemperato e incentivato in tutti i diversi fasi, le diverse fasi del sistema sanitario, sia come attore e interlocutore di una libera scelta contributiva e di finanziamento da parte dell'assistito, sia come erogatore diretto in concorrenza di qualità e di efficacia all'interno del sistema pubblico di servizi, sia, e questa è la cosa aggiuntiva di cui io sono personalmente convinto, come filtro di efficacia tra i meccanismi di finanziamento e di erogazione dei servizi. E io dico che un sistema pubblico può essere benissimo svolto, anzi meglio svolto, da assicurazioni private, da soggetti che raccolgono i finanziamenti e certificano la qualità molto meglio di quanto non faccia il pubblico. Questa è la mia opinione personale. Comunque facciamo rispondere per esempio ai dubbi che ha avanzato il nostro amico medico di Milano Luca da Gilberto Corbellini, che si è aggiunto con noi collegato, insegna storia della medicina, bioetica e epistemologia medica alla Sapienza di Roma. Professor Corbellini, lei che pensa? Buongiorno intanto dottor Giannino, ma io penso che sì, l'idea di contrapporre pubblico e privato è certamente superata. Il problema non è pubblico o privato, il problema è efficienza o non efficienza. Ora, noi abbiamo almeno un paio di secoli di esperienze, qui io non posso che fare riferimento alle mie competenze di storico, io non sono tanto competente sui meccanismi di funzionamento dei sistemi sanitari, riguardo dal punto di vista della loro evoluzione storica. Beh, insomma, la storia ci insegna in diversi ambiti, e credo che dobbiamo prendere atto che questo dovrà riguardare anche la sanità pubblica, che il mercato, la competizione e la concorrenza sono il sistema migliore finora inventato dalle società umane per produrre efficienza. E da questo punto di vista anche le esperienze del sistema olandese, come lei ha giustamente già sottolineato, dimostrano che effettivamente le cose funzionano così. Insomma, quando si vuole o si intende o si ha un'idea molto precisa di come evitare tutti i cortocircuiti che vi possono essere in termini di conflitti di interesse nel momento in cui lo Stato o il pubblico intende giocare tre ruoli in una stessa partita, effettivamente il caso olandese dimostra che bisogna innanzitutto introdurre degli elementi di separazione, e il ruolo dello Stato e del pubblico deve essere principalmente quello di regolamentare e definire degli standard nell'ambito della sanità pubblica. Volevo soffermarmi sulla questione del trattamento sanitario obbligatorio. Qui la questione ha una radice un po' di carattere storico. Insomma, noi abbiamo una legge sul trattamento, che regolamenta il trattamento delle malattie mentali, la cosiddetta legge Basaglia o legge 180, che è stata pensata in una chiave molto ideologica, sicuramente per cercare di evitare, di contrastare una serie di abusi che venivano anche praticati nell'ambito della gestione manicomiale delle malattie mentali, ma effettivamente questa legge non ha consentito uno sviluppo in Italia di una, di una gestione delle malattie mentali dal punto di vista sanitario davvero efficiente. Anche da questo punto di vista, il paese risulta ulteriormente diviso in una parte che è quella del nord, dove effettivamente ci sono degli approcci, dei dipartimenti di trattamento delle malattie mentali davvero efficienti, e un sud dove paradossalmente prevale il privato, ma dove però il privato è un sistema all'interno del quale i malati o le famiglie si rivolgono sostanzialmente non tanto per un trattamento, ma per tenere un po' sotto controllo queste persone. Allora, io mi ritrovo esattamente in queste due risposte di Corbellini. Adesso noi abbiamo l'interruzione per la circolazione stradale, però ripartiamo da due domande che sono quelle centrali, a cui io chiederò a tutti e tre i nostri interlocutori di rispondere dal loro punto di vista. Queste due domande quali sono? Primo, in che cosa sbaglia chi pensa, maggioranza dei nostri ascoltatori e dei cittadini italiani, in che cosa sbaglia chi pensa che più privato in sanità significa che chi è ricco è libero di curarsi e chi è povero è ancora più povero, per rischia di crepare perché non c'ha di che mettere mano per potersi permettere cure per malattie gravi, eccetera eccetera. Primo, è giusto o è sbagliato questo? Secondo, esiste il conflitto di interesse tra lo Stato che diventa il raccoglitore di risorse, l'erogatore e il collettore delle risorse, il certificatore degli standard di qualità, contemporaneamente colui che organizza e che poi gestisce direttamente il servizio? Non è questo terribile conflitto di interesse ciò che rende la sanità pubblica, nella regola generale, non nell'eccezione? La Lombardia è l'eccezione, non la regola, che la rende, per conflitto di interesse che non riguarda solo Berlusconi, come vedete, riguarda tutti i soldi che lo Stato ci piglia, un sistema inefficiente? Ecco, queste due domande e due risposte secche da ciascuno dei nostri interlocutori. Intanto adesso l'informazione stradale. Eccoci tornati, le due domande: in cosa il sistema, la componente privata, non discrimina i poveri e fa invece più efficienza, la seconda domanda è: non c'è un insanabile conflitto di interesse se è il pubblico, lo Stato, a raccogliere risorse, a essere nel collettore, a fissare gli standard del servizio sanitario pubblico, a fare i prezzi della sanità, i prezzi degli input intermedi, dei farmaci, della diagnostica, dei prezzi, delle prestazioni, di tutto, e in più a essere anche colui che offre il servizio. Alcuni mi chiedono: il sistema olandese in cosa consiste? Consiste nel fatto, per esempio, che i prezzi non li fa la politica, non li fa il ministero, li fa un'agenzia indipendente, che le centinaia, le più rilevanti sono alcune decine di assicurazioni private, hanno un ruolo riconosciuto nel sistema, nella formazione dei prezzi, e possono dire no anche a prezzi e a offerte di servizi data dalla componente pubblica, bocciandole pubblicamente. Quindi è una parte in cui il privato è stato individuato come un sistema di libertà e di efficienza delle scelte, esattamente nei tre passaggi: raccolta delle risorse, organizzazione degli standard di servizi, offerta dei servizi, e rispetto a com'era la sanità prima olandese contribuisce a portarla a far vincere un mucchio di premi, diciamo così, di qualità comparata insieme alla Germania, all'Olanda. È considerato il sistema dell'Europa continentale più efficiente. Allora, le due risposte, cominciamo da quelle del professor Pellissero. Avete un minuto e mezzo a testa, due minuti a testa. Prego, Pellissero. Allora, prima di tutto, privato è una parola ambigua. Allora, ci sono due privati. Uno è il privato dove uno va e paga direttamente. Questo privato in Italia è pochissimo. Nel nord Italia quasi scomparso. L'altro privato è in realtà pubblico, nel senso che è la gestione privata di ospedali che svolgono il servizio pubblico. Faccio sempre l'esempio della Lombardia perché è il più chiaro di tutti. Se lei in Lombardia va a farsi ricoverare, cito una serie di ospedali, al Policlinico di Milano, piuttosto che non al Policlinico San Donato, piuttosto che non all'ospedale San Paolo, piuttosto che non all'ospedale San Raffaele, piuttosto che non all'IEO di Veronesi, piuttosto che non all'Istituto Tumori, io ho citato tre ospedali privati, tre ospedali pubblici, chi va a farsi ricoverare lì non lo sa, perché va con la tessera sanitaria della regione e dal punto di vista dei costi e dal punto di vista amministrativo c'è una assoluta identità. Per cui la paura di dire con più privato si cura il ricco e non il povero è ridicola, nel senso che il privato che diventa gestore dell'ospedale del servizio pubblico si comporta nei confronti dei cittadini esattamente come il gestore. Seconda risposta a 45 secondi. La seconda risposta. Allora, il conflitto di interesse è spaventoso ed è uno dei principali problemi che ha questo paese, perché io faccio sempre l'esempio, il direttore generale dell'ASL, che ha un ospedale che fa parte dell'ASL, manda gli ispettori nel suo ospedale, gli ispettori rilevano qualcosa che non funziona, questi fanno rapporto al direttore generale, il quale adotta un provvedimento contro se stesso. Allora, ne pare una cosa possibile? Perfetto, quindi il professor Pellissero mi dà abbastanza ragione. Il professor Cesare Greco che dice invece? Allora intanto, come diceva il professor Pellissero, va chiarito che il privato, quando si parla di privato, ci si riferisce alla gestione, non ci si riferisce al pagamento delle prestazioni che sono comunque a carico del sistema sanitario nazionale. Vorrei aggiungere che la presenza di un privato accreditato efficiente finisce per influenzare positivamente anche il pubblico da un punto di vista della gestione, perché altrimenti il pubblico esce completamente fuori mercato. Per quanto riguarda quindi sono timori del tutto infondati, diciamo così. Per quanto riguarda il conflitto di interessi, il conflitto di interessi è enorme, genera una burocratizzazione enorme e, fra le altre cose, questa burocratizzazione genera di per sé, per esempio, il famoso problema delle liste d'attesa. Le liste d'attesa sono tipiche di quei sistemi sanitari che si rifanno al sistema sanitario inglese degli anni 40, sistema Beveridge cosiddetto, e sono molto meno presenti nel sistema bismarckiano, che poi, fra parentesi, è quello che avevamo noi quando avevamo le mutue. Il problema delle liste d'attesa è un problema che affligge l'Italia, l'Inghilterra, il Canada, la stessa Svezia, che sono tutti con lo stesso sistema di tipo statalista come ce l'abbiamo noi, in cui questo conflitto di interessi genera un cortocircuito burocratico che blocca tutto il sistema. Bene, qualcuno mi fa osservare, bella illusione Giannino, il tuo sistema olandese, l'Olanda non ha la Calabria. Sì, l'Olanda non ha la Calabria, d'accordo, però il problema è che la Calabria, col suo sistema di rendicontazione finanziaria della sanità affidato alla tradizione orale, lo sappiamo da 6 mesi che è così, ci ridiamo tutti, però è la tragedia. Lì il problema non è che sono i calabresi, scusate, il problema è la politica calabrese. Il problema è la politica che intermedia tanto e offre tale inefficienza, considerando la sanità un serbatoio di politica, che rispetto a questo principio pubblico di organizzazione e di efficienza del pubblico potere, ma è chiaro che l'Andrangheta comanda, ma comanderà sempre, ma ha ragione a comandare l'Andrangheta, perché è un sistema molto più efficace, cioè ottimizza al meglio le risorse del pizzo che gli date, in cambio ottenete certezza del diritto. E guardate, non sto difendendo l'antistato, sto dicendo che noi abbiamo quello che abbiamo, ma non è un male irreparabile scritto nel nostro DNA, e si supera, io ne sono convinto, più con una iniezione che rompe la continuità pubblica. Invece il virtuismo pubblico dice che il difetto dello Stato corruttore si cura con più Stato, e io non credo che lo Stato, se è corruttore da una parte, possa essere autorimediato da sola, cioè è un vizio autoimmunitario quello dello Stato corruttore. Questa è la mia personalissima opinione. Che ne pensa il professor Corbellini invece delle due domande? Sì, io non vorrei sovrappormi e ripetere le stesse cose che hanno detto i colleghi, e quindi vorrei provare a essere un po' in disaccordo con lei a questo punto finalmente. Sulla questione, cioè che non sia nel DNA, cioè io penso che qui in questo paese molte delle discussioni che si fanno su queste questioni non tengono conto di una storia culturale, direi quasi di una costruzione antropologica che si è venuta creando nell'ultimo secolo, ma soprattutto nel secondo dopoguerra, per cui insomma c'è una tendenza quasi una preferenza quasi generalizzata, che non si mette quasi mai in discussione, eccetera, per degli approcci tipo paternalistico, insomma, dove si vuole sostanzialmente vedere sempre nello Stato, nel pubblico, la soluzione dei propri problemi, insomma, e senza rendersi conto poi che si cade in molte, in numerose contraddizioni, cioè si guarda alle grandi conquiste scientifiche, si guarda la capacità di paesi come gli Stati Uniti o come i paesi olandesi o come i paesi del nord Europa di riuscire a sviluppare una grande efficienza tecnologica e una grande efficienza scientifica in campo sanitario, ma se gli Stati Uniti sono diventati quello che sono diventati, cioè sono stati nella seconda metà del Novecento un faro per la medicina, adesso non parliamo di sanità pubblica, insomma si potrebbe discutere. No, per la scienza medica proprio. Per la scienza medica sono diventati un faro, se non sono diventati è stato anche perché avevano quel sistema sanitario basato in gran parte sulla competizione che hanno avuto. Esatto. E ricordiamo che quando si è discusso il piano Obama per la sanità pubblica, in Italia nessuno l'ha detto, ma molti critici non è che dicevano attenzione a fare il piano sanitario perché altrimenti si uccidono i vecchietti in ospedale. Molti critici dicevano attenzione perché facendo un piano come quello che vuole Obama noi eliminiamo quel sistema di concorrenza e competizione che ha dato una così grande efficienza e ha portato per esempio la ricerca viva il professor Corbellini che ha detto una sacrosanta verità ignorata da tutti coloro che dicono viva il piano Obama, perché voi dovete sapere che la scienza medica ha una quantità di investimenti a parità di fatturato rispetto a che è maggiore, necessaria, e quindi una componente di efficienza privata stimola gli investimenti, i brevetti, le molecole, le tecniche non invasive, eccetera. Una componente di inefficienza pubblica molto elevata la abbatte, e quindi questa oltretutto è una conseguenza negativa dei sistemi tutti pubblici che non avevamo citato. Grazie al professor Corbellini, al professor Greco, al professor Pellissero, grazie a Filippo Aureggi, a Franco Piantanida, assistente alla diretta, e in redazione Guido Scotti, Linea Giornale Radio. Appuntamento a domani.